all'università, soprattutto per quanto riguarda le materie umanistiche, non è che si sia molto trasformata, mentre il mondo del lavoro, l'economia, più in generale la nostra vita ha degli altri orizzonti. E quindi, mentre anche facoltà umanistiche in altri paesi possono essere molto ben utilizzate dal mondo delle imprese, oltre che nell'insegnamento, che è quello più tradizionale, la nostra formazione è ancora molto lontana da quegli standard. Nessuno mi verrebbe in mente di far studiare filosofia e ingegneria insieme, o fisica e lettere, cose che avviene negli altri paesi e che consente proprio a quella formazione umanistica di essere anche più vicino al mercato del lavoro. A 10 anni dall'inizio del processo di Bologna, che avrebbe dovuto, tra le altre prospettive, adeguare l'università e la formazione a standard più europei, quale bilancio si può fare del processo di riforma dell'università? Ma un bilancio che tutti riconoscono essere molto negativo, perché in realtà l'europeizzazione delle nostre università avrebbe voluto dire una formazione di qualità, ma in tempi molto più rapidi. Questo vuol dire 3 più 2. 3 vuol dire avere delle competenze in grado di poter entrare direttamente nel mondo del lavoro, più 2 nel senso della specializzazione, dell'approfondimento. Invece noi abbiamo assolutamente un'università fatta alla rovescia, 3 anni molto generici che tutti i docenti dicono non sono sufficienti a entrare nella vita attiva, per poi aggiungere altri 2 che sono quelli professionalizzanti, cioè noi abbiamo fatto e facciamo e continuiamo a fare l'opposto di quello che si fa in Europa. Quali facoltà nei prossimi anni saranno decisive per degli sbocchi lavorativi? Intanto devono essere facoltà che fanno certamente cultura, ricerca, ma non disdegnano entrare anche in contatto col mondo delle imprese di varia natura, e quando parliamo delle imprese non sono solo quelle industriali, la fabbrica, ma sono anche quelle terziarie, la sanità, la salute, sicuramente un ambito di applicazione molto importante, non si tratta solo di medici, ma si va anche di professioni intermedie legate proprio alla cura e al benessere psicofisico. Poi certamente tutto quello che è legato alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione, informatica oggi non è più una cosa da ingegneri, ma può essere anche da creativi, da chi inventa un modo di comunicare, da chi inventa un modo di vendere, quindi sono professionalità che andranno sempre di più. Certo, oggi questo studio di profilare la formazione e quindi anche di orientare i giovani non soltanto verso quello per cui sono portati o che piace, ma anche per quello che potranno realmente sperimentare come una loro professione, è fondamentale, perché altrimenti che cosa si fa? Si danno delle nozioni, si fanno delle professionalità che poi non possono mai sperimentare in proprio quello che hanno studiato, è assurdo. Su quali basi si potrebbe rilanciare tutta la filiera formativa del nostro paese? Questa è la famosa formazione lungo tutta la vita. Ora, proprio in questi giorni si parla di ammortizzatori sociali, un termine orribile. Qui non si tratta di espellere dal mercato del lavoro persone e poi trovargli il modo per poterle fare sopravvivere. La formazione continua e la mobilità, che io direi è molto meglio della flessibilità, cioè il fatto che si possa cambiare lavoro quando si desidera migliorare, quando si desidera cambiarlo, oppure anche quando ci sono dei problemi, ma appunto attraverso la formazione si può trovare un lavoro laddove il mercato tira di più. Questo meccanismo da noi proprio è fuori dalla nostra cultura. Noi da una parte litighiamo sull'articolo 18, dall'altra parte litighiamo su quanti soldi mettere sugli ammortizzatori sociali, che poi chiameremo in qualche altro modo, ma quello è. Dall'altra parte ci lamentiamo che i giovani sono precari. Queste 3 cose in realtà la formazione le può unificare, perché è lo strumento attraverso cui può essere flessibile davvero, si può cambiare lavoro, ma non restando sempre in una condizione di marginalità, ma in quella logica mobile e fluida che ti tira dei mercati del lavoro più avanzati.